in primo piano. Venerdì 23 luglio, le aperture sono diversificate, così come le notizie. Non c'è una notizia che si impone sulle altre sui giornali oggi. Il Sole 24 Ore apre sul federalismo al primo passo, come preannunciato è stata approvata ieri in via preliminare il decreto attuativo che introduce i fabbisogni standard per comuni e province, poi toccherà le regioni a settembre. La vicenda Fiat con l'annuncio di Marchionne: produrremo in Serbia perché i sindacati in Italia non sono credibili, non sono affidabili. Scontro sulla Fiat in Serbia, questa è l'apertura del Corriere. La Stampa: il governo, un tavolo sulla Fiat, mentre il Messaggero: Fiat in Serbia, no del governo. Per Repubblica invece si batte il tasto sulle intercettazioni, la norma salva P3, questa sarebbe spuntata da Repubblica. C'è una norma nella legge sulle intercettazioni che limita gli ascolti nelle indagini sulle associazioni a delinquere, questo denuncia Repubblica, e dunque la norma salva P3. Vedremo poi altre aperture di giornali. Come detto, è stato approvato il federalismo, un passo avanti per il federalismo. Il federalismo, come scrive Eugenio Bruno a pagina 3 del Sole 24 Ore, citando questa frase del ministro Tremonti, è una casa e come ogni abitazione va costruita dal basso, e dunque si è partito dai comuni. Il decreto sui fabbisogni standard nel corso del Consiglio dei Ministri è stato definito così da Tremonti, cioè questa casa che va costruita dal basso e dunque dai comuni, poi le province, poi toccherà alle regioni. Il tema però, che ieri è stato anticipato dal Corriere della Sera da Sergio Rizzo, era questo: il dubbio che a Berlusconi non piacesse molto la possibilità di prevedere questa IMU, questa imposta municipale unica che può raggruppare tutte le varie imposte comunali. Perché ieri il Corriere scriveva non piacerebbe a Berlusconi? Perché in questa IMU i comuni potrebbero aggiungere una addizionale, prevedere un'addizionale. Il timore è che questa addizionale possa andare a compensare il taglio dell'ICI sulla prima casa che c'è stato, è stato fatto appunto dal governo, e dunque ecco che Berlusconi non sarebbe molto favorevole a vedere una tassa che potrebbe profilare in via trasversale, in via, diciamo, far entrare dalla porta secondaria un addizionale che potrebbe far pensare al riapparire, al riaffiorare dell'ICI. Tremonti ieri ha smentito questo, ha detto nessuna ICI sulla prima casa, non torna l'ICI. Oggi il Sole 24 Ore fa vedere come la relazione sul federalismo fiscale prevede che questa imposta municipale unica possa essere raggruppata, potrà essere raggruppata, potrà essere creata, dunque raggruppata tutte queste imposte solamente a discrezione dei comuni, quindi è una scelta volontaria, e solo dopo un referendum dei cittadini, quindi previa verifica del Consiglio. Senso popolare. È una scelta dei comuni, e Tremonti comunque ha assicurato non c'è l'ICI che torna. Saremo ovviamente a vedere. Ma certo, l'immagine che più ha colpito ieri di Tremonti è questa dell'ennesima conferma dello scontro con le regioni. Sentite cosa ha detto Tremonti, quella frase molto significativa per capire, far capire la contrapposizione che c'è, soprattutto col presidente della regione Lombardia, Formigoni. Tremonti: le regioni non sono d'accordo, i governatori scenderanno dai grattacieli. Ora, l'emblema della regione Lombardia, ma non solo, anche della regione Emilia-Romagna, sono dei grattacieli, soprattutto in Lombardia il pirellone. Tanto che Formigoni, a pagina 2 del Corriere della Sera, un Formigoni mai così loquace come in questi tempi per battere il tasto sul fatto che questa manovra non gli piace, Formigoni a pagina 2 del Corriere fa un'intervista: con i nostri palazzi, efficienza e risparmi. Intanto ride sulla battuta dei grattacieli. È evidente che il ministro ha in mente soltanto i nostri due grattacieli, e ha ragione, perché sono i due più alti d'Italia, dice Formigoni. Ricordo però a Tremonti che costruendo il secondo palazzo risparmieremo alcuni milioni di euro l'anno, e poi sono il simbolo di modernità e di efficienza. Ancora Formigoni dice: non va bene la manovra, vedremo di tagliare studiando soluzioni alternative per non gravare sui cittadini. Ora però certo vorremmo vedere i costi dei ministeri della pubblica amministrazione statale, non solo quello delle regioni. Lo scontro, il duello continua, Tremonti e Formigoni, il duello del grattacielo. A pagina 7 del Giornale si riassume in una pagina qual è lo scontro sul tema del federalismo tra governo centrale e regioni. La politica invece è tutta appesa all'appello che ieri Berlusconi ha fatto su un sito, forzasilvio.it, credo che sia la dicitura esatta del sito. Un appello che tra l'altro è stato anticipato dal TG1 con annesse polemiche, è una TV di regime dall'opposizione. Minzolini, il direttore del TG1, che dice ma basta, ho fatto uno scoop, e quindi di fronte a uno scoop ormai c'è la paranoia da parte di chi mi attacca. Sta di fatto che il tema politico è questo. Berlusconi ha fatto questo appello dicendo c'è una furibonda campagna mediatica contro il governo, contro di noi, e resisteremo, ci vuole coesione, il Popolo della Libertà è tutto unito, tutto perfetto, tutto va bene. Il problema qual è? Che i retroscena dei giornali raccontano l'esatto contrario. E come al solito qui non c'è da dire giornali di destra, giornali di sinistra, tutti i giornali raccontano l'esatto contrario. Sentite per esempio, cominciamo da Repubblica, ma poi vedremo anche qualche giornale più vicino al centrodestra. Il Cavaliere prepara l'offensiva estiva, Fini è come la FIOM, ma rivoluzionerò il partito. Un Berlusconi che scrive Francesco Bei a pagina 2 e 3 di Repubblica non ne può più per esempio di quei ventriloqui parlamentari di Fini, da Barbareschi, Granata, Bocchino, che ogni giorno con un linguaggio inaccettabile gettano fango su di noi. È andato a una cena, spesso quando va a queste cene Berlusconi parla e poi come si fa alle cene ovviamente, e poi però tutto questo si trova virgolettato sui giornali. Bisogna capire se è vero che ha messo questa taglia offrendo 5 milioni o 3 milioni di euro a chi spiffera tutto e va sui giornali. Evidentemente questa taglia per ora non è stata ancora assegnata a nessuno. Se continuano a uscire virgolettati di Berlusconi, per esempio, infuriato con Fabio Granata, che ha parlato delle stagioni stragista della mafia, mi si accusa di una cosa abominevole come una strage, avrebbe detto Berlusconi, proprio a me che non ho mai in tutta la vita fatto male a una persona, quale mente malata può venire in mente una follia simile? E poi su Fini, non ne può più, sono stanco della trattativa continua, Fini è diventato come la FIOM. Ma è interessante questa immagine, proprio tra l'altro in momenti in cui si parla di FIOM, di Fiat. Io ho fatto il possibile e l'impossibile, ma lui non è mai contento. Sentite per esempio il giornale Chi Scomoda per attaccare oggi, dacci oggi, l'attacco quotidiano a Fini da parte del giornale è Chi Scomoda, Vittorio Feltri. Scomoda Oriana Fallaci. Ripropone una parte del libro La forza della ragione, risalente al 2004, alcune pagine del libro in prima pagina, i tradimenti di Fini annunciati dalla Fallaci. Praticamente quasi l'intera prima pagina c'è una foto di Oriana Fallaci e un brano del libro La forza della ragione. Sentite cosa scriveva Oriana Fallaci nel 2004. Signor vicepresidente del Consiglio, allora Fini era vicepremier, lei mi ricorda Palmiro Togliatti, il comunista più odioso che abbia mai conosciuto, l'uomo che alla Costituente fece votare l'articolo 7, ossia quello che ribadiva il concordato con la Chiesa Cattolica. Come Togliatti lei è capace di tutto, non a caso quelli della sinistra la trattano con tanto rispetto, anzi con tanta deferenza. Su di lei non rovesciano mai il velenoso livore che rovesciano sul Cavaliere, contro di lei non pronunciano mai una parola sgarbata, a lei non rivolgono mai la benché minima accusa. Lei, come Togliatti, è un gelido calcolatore, non fa mai nulla e non dice mai nulla che non abbia ben soppesato, ponderato, vagliato per sua convenienza. Come Togliatti sembra un uomo tutto d'un pezzo, un tipo coerente, ligio alle sue idee, invece è un furbone, un maestro nel tenere in piede in due staffe. Dirige un partito che si definisce di destra e gioca a tennis con la sinistra. Fa il vice di Berlusconi e non sogna altro che detronizzarlo, mandarlo in pensione. Va a Gerusalemme con la kippah in testa, piange lacrime di coccodrillo allo Yad Vashem e poi fornica nel modo più sgomentevole coi figli di Allah. Vuole dargli il voto, dichiara, che perché lo meritano, perché pagano le tasse, vogliono integrarsi, anzi si stanno integrando. Insomma, un'Oriana Fallaci che... con la sua scrittura sempre straordinaria, gettava questo veleno su Fini. Signor Vicepresidente del Consiglio, nonostante la sua aria quieta ed equilibrata, lei è un uomo molto pericoloso, perché ancor più degli ex democristiani, che poi sono i soliti democristiani con un nome diverso, può usare a malo scopo il risentimento che gli italiani come me esprimono nei riguardi dell'equivoco oggi chiamato sinistra. Oriana Fallaci, tradimenti di Fini annunciati dalla Fallaci, oggi in prima pagina del Giornale. Ma ripeto, anche il foglio in un fondo di prima pagina, verso un conclave di guerra, affetta ottimismo Silvio Berlusconi, tutto bene, tutto a posto, in realtà di guai ne parecchi, i rapporti con Gianfranco Fini, l'aria è tornata a quella dello scontro, scrive il Foglio. Così Libero, pagina 6, lo sfogo del premier, non distinguo più la sinistra da Fini. E ancora, questa accusa è come la FIOM. Immagine Fini, FIOM. Insomma, c'è da dire che anche un po' non se ne può più di questo balletto, di questo teatrino della politica di contrapposizione, di contrapposizione che poi dà retroscena, dà virgolettati. Sta di fatto che questo è quello che ci riserva in questo momento della legislatura. La politica, insomma, si parla poco delle cose concrete, si parla molto, almeno sui giornali, vagonate e paginate sui rapporti Fini Berlusconi. Poi ogni giorno si dicono sempre le stesse cose, si scrivono sempre le stesse cose di questo rapporto. Trovate molto ancora dell'inchiesta sulla P3, che ancora oggi fa passi in avanti almeno sulle cronache dei giornali. I nuovi sviluppi sono che ci sono altri magistrati che sono finiti in qualche modo nell'occhio del ciclone. Uno di questi è Gargani, scrive Domenico Lusi sul Sole 24 Ore a pagina 14. Dopo Flavio Carboni, Pasqualino Lombardi e Arcangelo Martino, cioè i tre che sono in carcere, ieri negata la scarcerazione, tentarono di costituire questa P3, secondo l'accusa, si sarebbero affidati ad Angelo Gargani, capo dell'ufficio controllo interno del Ministero della Giustizia, che avrebbe cercato di ottenere informazioni dai magistrati per capire di... secondo l'accusa, forse informare gli indagati, le persone che poi sono finite agli arresti. La Cassazione, Gargani interferì nelle indagini. Angelo Gargani è, diciamo, il magistrato che oggi trovate sui giornali e che è finito più nell'occhio del ciclone. Mentre Repubblica intervista la moglie di Denis Verdini, per la verità sono poche parole, a pagina 9. In taglio basso, Riccardo Bianchi, davvero poche battute. D'altronde la moglie, Maria Simonetta Fossombroni, dice: Denis è un chiacchierone, quello è il suo vizio. Io invece ho imparato la scuola di Spadolini, ascolto e non parlo mai. Infatti questa intervista è di 5-6 domande. Dice... perché è stata tirata in ballo, qualcuno ha messo il suo nome per i conti di Verdini. Io non ne so niente. Mio marito ha detto la verità, non conosceva Carboni prima del giugno 2009... Venne fuori anche questa storia dell'inchiesta del G8, questa stupida storia di mio figlio ospite da Riccardo Fusi, uno di quelli coinvolti invece nella cosiddetta cricca del G8. Beh, guardi, i nostri ragazzi andavano al mare insieme, se c'è un figlio di un amico lei non lo ospita? Ma lei vendette anche a Fusi una villa Forte dei Marmi per 3,7 milioni di euro, ma meglio a lui che ai russi, almeno lo conosco. Quella villa però aveva un'ipoteca, non sono una persona pubblica, non sono inquisita, i giudici non mi hanno chiesto niente, non voglio parlare, se il mio nome finirà sui giornali mi riservo di ricorrere alle vie legali. Accidenti, è finita sui giornali, chissà, questa è dunque stata un'intervista rubata, io lo so, un piccolo giallo, non voglio che il mio nome finisca sui giornali, ma in realtà Riccardo Bianchi mette qualche domanda su Repubblica, domanda e risposta alla moglie di Denis Verdini, che accusa il marito di essere un chiacchierone. È un chiacchierone. Io invece, quello è il suo vero vizio. Mentre finisce nell'inchiesta anche Lele Mora, sviluppato dal Messaggero a pagina 7, era, secondo l'accusa, in affari con Flavio Carboni, che da una parte gestiva le cosiddette questioni dell'eolico in Sardegna, dall'altra parte si buttava in slot machine e videopoker, e aveva, secondo l'accusa, tra i soci Lele Mora. Un'altra persona coinvolta in questo era Pasquale De Martino, secondo l'accusa. Chi è Pasquale De Martino? Definito così, soggetto poliedrico, implicato in molteplici attività, vincolato in maniera indissolubile alla camorra campana. Dunque, Carboni e Lele Mora in affari per i casinò e nel sodalizio anche un referente della camorra. Così il Messaggero con Massimo Martinelli a pagina 7 spiega l'ingresso anche della vicenda in questa vicenda di Lele Mora. Oh, troviamo due chicche solo da Libero, pagina 9, e dal Giornale, pagina 17. Si rinnova per Berlusconi il parco aerei e navi. Allora, pronto dal 2011 il Premier 2, ma non è un nuovo governo, è solo un aereo. Opzionato un nuovo aereo da 7 milioni di dollari per il prossimo anno per la sua flotta privata. Ne parla Libero, a pagina 9 c'è tutta la flotta di Silvio, mentre si chiama Suegno, a pagina 17 del Giornale. Suegno, c'è anche una foto, è il custom line del gruppo Ferretti, acquistato da Pier Silvio Berlusconi, 124 piedi, cioè 37 metri, 4 suite, una sala fitness, 27 nodi di velocità, può ospitare fino a 16 persone tra ospiti ed equipaggio, è la nuova... Insomma, il nuovo gioiello del mare, il nuovo mega yacht di Pier Silvio Berlusconi. Costo 6 milioni. C'è la foto sul Giornale, se volete. Governo in pressing su Fiat. Questo è il titolo di apertura di Economia e Imprese del Sole 24 Ore. E vale a dire, la vicenda è quella, dopo l'annuncio di Marchionne, produrremo, visto che i sindacati, la vicenda Pomigliano insegna, produrremo in Serbia la nuova monovolume, e questo ha scatenato ovviamente il dibattito. Il governo impresso in su Fiat, Calderoli, noi ci opporremo, Sacconi, che abbiamo sentito intervistato anche il nostro Simone Spezia, bisogna riaprire il tavolo. Il tema è molto sviluppato dai giornali, alcuni ci aprono, il Corriere della Sera, Marchionne, avanti dopo lo strappo, la strategia nostra è solo vendere auto, è in silenzio Marchionne, si trova ad Auburn Hills, vale a dire nella sede da Chrysler, dove c'è stato il consiglio d'amministrazione, è stato anche annunciato lo spin-off, la separazione di Fiat a partire da settembre. Certo, questa mossa serba non era del tutto imprevedibile, scrive Raffaella Polato, ma è un Marchionne che fa filtrare alcuni concetti, e cioè questi micro scioperi, questa micro conflittualità ovunque, che non va bene, che rischia di paralizzare la produttività. La Fiat non fa politica, fa automobili e le deve vendere, questa deve essere l'unica nostra logica aziendale. Ovviamente la FIOM con il suo segretario Landini fa due interviste, oggi le trovate sull'Unità, ben due pagine, intervistato dal vice direttore Rinaldo Gianola. È caduto il velo Fabbrica Italia, così non è credibile, e così anche crolla il piano industriale, anche sul Fatto Quotidiano. Salvatore Cannavò intervista Landini, ripeto, segretario della FIOM, molto critico su questa vicenda. Io però voglio andare a una serie di segnalazioni, vediamo così, spot qua e là, perché ce ne sono interessanti di cosiddetto taglio un po' più, o tra leggero, comunque di taglio diverso, non proprio di titoli di apertura. Sulla vicenda inchiesta Via D'Amelio, la strage di Borsellino, tutte le polemiche, le presunte trattative, i presunti complotti, le presunte coperture, la verità, forse siamo vicini alla verità dopo 18 anni, forse no, chissà. Oggi il Fatto Quotidiano con Marco Lillo a pagina 3, insomma, scrive qualcosa che è un qualcosa davvero in più rispetto agli altri giornali. Questo famoso signor Franco dei servizi segreti, che il figlio di Ciancimino dice trattava in qualche modo, lo vedevo sempre da mio padre, eccetera. Secondo il Fatto Quotidiano potrebbe essere chi? Moshe Gross, cittadino israeliano, per anni è stato il console onorario dell'Italia in Israele, oggi ha 84 anni, ha avuto però, c'è tutta la ricostruzione della sua storia, ha avuto però come trafficante, commerciante di diamanti, un ruolo, ha avuto tutta la sua vita, spesso anche condotta in Italia, un appartamento per esempio a Milano per tanti anni. Ora il figlio di questo Moshe Gross, Carlo Gross, è tuttora in carica ad Haifa come console onorario dell'Italia in Israele, ad Haifa, e che dice ma assolutamente lo raggiungiamo, chi è Ciancimino? Non so nulla, non conosce niente dell'Italia, non so neanche chi è Michele Santoro, non so perché poi debba essere fatta la domanda su chi è Michele Santoro. Non conosco il generale Mario Mori, ho vissuto in Italia fino all'età di 14 anni ma non leggo i giornali italiani, non sono mai stato in Sicilia. Insomma, è questo Moshe Gross? Chi lo sa, il Fatto Quotidiano lancia questa idea. Potrebbe essere il nostro console onorario in Israele per anni, Moshe Gross, questo famigerato signor Franco dei servizi segreti. Se così fosse, scrive Il Fatto, andrebbe riscritto tutta la vicenda della mafia in chiave atlantica, addirittura, cioè, con i complotti con il Mossad, Israele, eccetera. Oggi Oscar Giannino alle 9 parlerà di questa vicenda della Corte di Cassazione che ha rigettato il decreto, ha giudicato sbagliato il decreto del governo che ha detto in caso di stupro una persona in attesa di giudizio deve andare comunque obbligatoriamente in carcere. Si parlerà dunque di questo tema molto molto molto grave. Io cito anche qui, descrivere le foto in radio non è facile. Pagina 9 dell'Unità c'è una denuncia di una pubblicità che è apparsa a Milazzo, in Sicilia. La pubblicità voleva essere una pubblicità per i pannelli fotovoltaici. Il problema è che, allora, in questa pubblicità immaginatevi una donna nuda che è in una posizione, insomma, come descriverla? Diciamo l'ultimo numero del lotto. Una delle posizioni, scrive Manuela Modica, più una posizione sessuale tra le più note. Il problema è che per pubblicizzare questi pannelli fotovoltaici c'è questa donna in questa posa, in questa posizione, nuda, montami a costo zero. Questo è il titolo della pubblicità. E sotto, ehi, parliamo di fotovoltaico. Ovviamente cioè, se l'oggetto da vendere diventa il corpo di lei, questa è la denuncia dell'Unità, sono stati poi tolti da Milazzo questi cartelloni, ma cartelloni pubblicitari giganti. I pubblicitari dicono è solo ironia, è stata solo ironia, ma certo si è scatenato un putiferio a Milazzo, la palma della volgarità, rimosso dopo le reazioni da parte di molti, e sta di fatto che insomma... montami a costo zero, proprio il giorno in cui si parla poi di questo tema molto molto grave delle violenze sessuali sulle donne, ci sono anche pubblicità creative, definite così, di questo tipo di volgarità. Vabbè, c'è tempo ancora per qualche segnalazione. Segnalo la palma oggi della decisione più impopolare, la presa Evelina va a Evelina Arabella Grassi, eletta nella giunta di centrodestra a Bregnano. La racconta il Giorno, questa storia, nella bassa comasca, eletta nella Lega, nella lista del PDL, che ha fatto in tempi in cui tutti si tagliano lo stipendio, anche i parlamentari, si è triplicata lo stipendio da sindaco. Per carità, è arrivata a triplicarsi fino ad arrivare a 1.500 euro al netto di trattenuta IRPEF e 6% di addizionale comunale che pagano tutti i bregnanesi. Motivo? Ho lasciato il mio lavoro, faccio il sindaco a tempo pieno, si è aumentata del 300%. Lo stipendio, la palma della decisione più coraggiosa, certamente, e impopolare. Un'altra vicenda che trovate sui giornali è questa. Il ministro Fitto, pugliese, che va sempre in vacanza in Alto Adige, non ne può più di vedere i cartelli, in alcuni casi solo con scritte in tedesco. E ha detto a Bolzano, avete 60 giorni di tempo per farli sparire o intervengo. Il governo a Bolzano via i cartelli in tedesco, lo facciamo noi. Si profila questo nuovo scontro con il presidente della provincia di Bolzano, Luis Durvalder. Basta diktat arroganti, intervistato dal Corriere della Sera. E all'annuncio, guardi che Fitto, ha detto che avete 60 giorni per togliere queste scritte, in alcuni casi solo in tedesco, va bene il bilinguismo, ma solo in tedesco, ha detto, se no viene qui e interviene lui, sbaglia, se fa atti di forza prevedo reazioni determinate e allora potrebbe finire male. Così il minaccioso Durvalder.